Spezia. Sono ripresi gli scontri nell'Ucraina orientale. Blindati di Kiev entrano a Sloviansk, occupata da due settimane da filorussi. Ci sarebbero 5 vittime. Il governo cambia strategia sul caso dei Marò. Rimosso De Mistura, ora diventa una questione internazionale, dice il ministro Mogherini. 750 milioni di euro dai conti correnti, tanto costerà l'innalzamento della tassa sulle rendite finanziarie, il calcolo fatto dal Sole 24 Ore sul decreto IRPEF. Roma si prepara ad accogliere 1 milione di persone per la canonizzazione dei due papi di domenica. Dalle 5.30 di mattina partirà l'afflusso dei fedeli. L'alto forno della Lucchini di Piombino va in stand-by, lavoratori in presidio, dovrebbero arrivare 50 milioni di euro. Tra acciaieria e indotto coinvolti 5.000 lavoratori. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, come sempre se volete le potete commentare al 349-238-6666 via sms dunque, oppure scrivendomi su Twitter Simone Spezia, oppure scrivendoci una mail effettogiorno@radio24.it. Iniziamo dalla situazione in Ucraina, c'è stata una nuova drammatizzazione, oggi ne parliamo con Antonella Scott del Sole 24 Ore, buongiorno Antonella. Buongiorno. Allora, la situazione qual è? Dunque, è iniziata la battaglia di Sloviansk, dimentichiamo gli accordi di Ginevra, dimentichiamo la tregua pasquale, l'operazione delle forze speciali ucraine contro i separatisti nell'est del paese ha preso di mira l'epicentro della rivolta. Sloviansk è stata la prima città a ribellarsi in marzo all'autorità centrale di Kiev, che non riconosce. E oggi nella periferia della città i governativi, che sono truppe del Ministero dell'Interno e dell'Esercito ucraino, combattono a colpi di arma da fuoco contro le milizie locali, ci sono vittime. Come dicevi, l'ospedale di Sloviansk fa sapere che i feriti continuano ad arrivare, ma è ancora molto difficile dare un bilancio sulle perdite subite dalle rispettive parti, anche se il Ministero dell'Interno ucraino parla di forse 5 morti tra i separatisti. Allora Antonella, ascolta, Vladimir Putin, il presidente russo, dice l'operazione contro il popolo ucraino, così la definisce, avrà delle conseguenze per coloro che prendono queste decisioni a Kiev. A che tipo di conseguenze potrebbe pensare Putin, anche militari secondo te? Questo è molto, sì, è molto preoccupante, perché rende più concreta la prospettiva di un intervento russo. Ricordiamo che ieri il ministro degli esteri Lavrov aveva detto che la Russia avrebbe risposto in caso di attacco ai propri interessi e che un attacco a cittadini russi è un attacco alla Federazione russa. È anche preoccupante il fatto che Mosca stia chiamando sempre più in causa gli Stati Uniti. Oggi il Ministero degli Esteri ha detto che gli Stati Uniti devono usare la loro influenza per attuare appunto gli accordi di Ginevra, che ricordiamo chiedevano a entrambe le parti di smobilitare, di astenersi da ogni forma di violenza, cosa che a questo punto la giornata di oggi sembra ormai veramente difficile che si riesca a considerarli ancora in vita. Grazie ad Antonella Scott, vedremo come evolverà la situazione e naturalmente torneremo a commentarla più avanti. Adesso ci spostiamo e andiamo in Brasile, dove ci sono stati nuovi scontri. L'orologio del mondiale segna meno 49 giorni, ma a Rio il clima non è affatto di festa. La notte scorsa 5 ore di tumulti hanno trasformato in campo di battaglia i quartieri favelas vicino a Copacabana e Ipanema. A far scoppiare le proteste, la morte di Douglas Rafael de Silva Pereira, 25 anni, ballerino di un noto programma televisivo che, secondo amici e parenti, sarebbe stato ucciso dalla polizia martedì. Importanti vie di Copacabana, frequentate ogni giorno da centinaia di turisti e anche stranieri, sono state bloccate con barricate di fuoco da parte della popolazione. La reazione delle forze dell'ordine è stata immediata e molto forte. Un trentenne è rimasto ucciso e un bambino di 12 anni ferito. Quello che ora tutto il mondo si chiede è se il Brasile sia pronto a ospitare tifosi e turisti per i mondiali. A turbare le autorità, in particolare il fatto che i disordini siano sempre più frequenti proprio in favelas già pacificate dall'intervento dell'esercito, un'ulteriore conferma della fragilità del programma di bonifica avviato nel 2008 in alcune delle aree più pericolose tradizionalmente in mano al narcotraffico. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed eccoci a tornare all'Italia e a parlare di Piombino, dove è entrato in stand-by sostanzialmente l'altoforno dell'acciaieria Lucchini. Saluto Mariano Maugeri, inviato del Sole 24 Ore. Buongiorno Mariano. Ciao Simone, buongiorno agli ascoltatori. tu ti trovi là adesso, a Piombino? Sì, sono a Piombino. In realtà le procedure per lo spegnimento sono state più laboriose del previsto. Si spegnerà l'altro forno tra le 17 e le 19. In questo momento si stanno caricando gli ultimi carri di siluro di ghisa, quindi la ghisa residua che produce l'altoforno, dopodiché appunto sarà addormentato. Gli altoforno qui lo chiamano il mostro. Perché non è un vero e proprio spegnimento, Mariano, esattamente, no? Esattamente, rimarrà in stand-by per una ventina di giorni, dopodiché o sarà riacceso oppure si spegnerà per sempre, con tempi di raffreddamento peraltro di 4-5 mesi, perché ricordiamo la ghisa dentro l'altoforno è a temperature di 1700 gradi centigradi. Quali sono le prospettive di salvataggio dell'impianto e dell'area industriale? Guarda, c'è un forte interesse del re dell'acciaio indiano, Jindal, che è stato qui in ricognizione a Piombino un mese fa e ha visitato l'acciaieria, è rimasto particolarmente impressionato dal livello di preparazione dei 50 tecnici e ingegneri che poi sono l'aristocrazia, diciamo, di questa fabbrica di 2200 persone, prospettandogli addirittura, se mai fosse lui il compratore, un'assunzione in India oppure in altri mercati medio orientali dove sta per aprire altre acciaierie. Grazie a Mariano Maugeri, inviato del Sole 24 Ore, ti auguro una buona giornata e un buon lavoro naturalmente da là. E adesso invece cerchiamo di fare un punto sulla situazione politica, anche su questo ci torneremo più avanti, ma le tensioni naturalmente si addensano sul Senato, dove approda il decreto lavoro e dove naturalmente si discute di riforme. Vincenzo Miglietta, buongiorno, ciao. Sì, buongiorno, battute finali qui a Montecitorio e parto, Simone, dal decreto lavoro. Siamo infatti alle dichiarazioni di voto, a seguire ci sarà il via libera della Camera, il testo passerà, come hai detto tu, quindi al Senato. I nodi irrisolti all'interno della maggioranza che hanno spinto il governo a porre la fiducia votata ieri slittano quindi a Palazzo Madama, dove però dovrebbe reggere la mediazione delle ultime ore del ministro del lavoro Poletti, che al momento non ha incontrato opposizioni da parte del Partito Democratico e del Nuovo Centrodestra, mediazione che punterebbe a modificare il testo in soli due punti, la sanzione per lo sforamento del tetto del 20% e il preambolo sul contratto di inserimento. Altro nodo da sciogliere, restiamo per questo al Senato, è quello della riforma proprio di Palazzo Madama. Si avvicina il primo passaggio rilevante, l'adozione di un testo base da parte della Commissione Affari Costituzionali, e per questo sale la tensione. Forza Italia strizza l'occhio alla minoranza PD e alla sua battaglia per mantenere il Senato elettivo. Da Largo del Nazareno richiamano però gli azzurri all'osservanza dei patti, ma sul Senato elettivo la fronda è destinata ad allargarsi con l'appoggio alla mozione Chiti dei 5 Stelle. È tutto, linea allo studio. E grazie al nostro Vincenzo Miglietta. Saluto Gianni Trovati del Sole 24 Ore che è in studio con noi. Gianni, ciao, bentornato. Buongiorno, buongiorno a voi. A te faccio sempre parlare di brutti argomenti. Le tasse, parliamo del decreto IRPEF, insomma, finalmente abbiamo sostanzialmente il testo, insomma, ci sono naturalmente gli sgravi, i famosi 80 euro, ma da quel che segnalate voi oggi in apertura il prelievo dai conti correnti sarà tutt'altro che indolore. Sì, sono 755 milioni, per farci una cifra diciamo abbastanza chiara, che sono parte del aumento delle aliquote dal 20 al 26% di quelle che si chiamano le rendite finanziarie. Il tutto cuba oltre 2 miliardi di euro, un terzo dei quali è appunto previsto in arrivo dai conti correnti e dai depositi bancari, a ulteriore riprova del fatto che parlare di aumenti della tassazione sulle rendite finanziarie è ottimo argomento da dibattito politico, ma poi quando si va sul pratico queste rendite finanziarie, oltre ai grandi speculatori, agli emiri eccetera, riguardano anche i conti correnti dei pensionati, dei lavoratori dipendenti e di tutti quanti. Il tema è appunto diciamo il cuore delle coperture. Dai calcoli che si possono fare sulla base della relazione tecnica, meno del 40% dei quasi 7 miliardi che servono a finanziare il bonus arriva da tagli di spesa, il resto arriva da aumenti di entrata. E quindi in sostanza da nuove tasse. Esattamente, quindi in sostanza da nuove tasse, e all'interno di queste nuove entrate, quindi nuove tasse, l'aumento del prelievo dal 20 al 26%, appunto chiamiamole rendite finanziarie, ma abbiamo appena detto cosa sono, giocano un ruolo da protagonista. Senza contare, Gianni, e qua ti chiamo su un tema del quale sei espertissimo, la botta che arriva con le tasse locali. Senza contare la botta che arriva con le tasse locali, noi, come dire, presi dall'attualità giorno per giorno ci dimentichiamo di quello che sta per arrivare con la IUC, la TASI, la TARI e le varie sigle. Il decreto Salva Roma Ter, cioè il terzo tentativo di salvare la capitale, deve ancora essere votato al Senato, lo sarà in questi giorni, e diventerà definitiva la disciplina delle tasse locali, che sostanzialmente anche sulla prima casa non garantisce a tutti, anzi tutt'altro, che la TASI sia inferiore all'IMU. Da quello che si prepara a Milano e a Roma, per citare due comuni non proprio irrilevanti nel panorama italiano, molte prime case anche di valore medio-basso, quindi dove ci sta naturalmente la gente con redditi più bassi, pagheranno di TASI più di quello che pagavano di IMU. Questa è un'eredità del governo Letta, da cui il premier Matteo Renzi si è molto saggiamente tenuto lontano, diciamo, nel dibattito politico. Tuttavia è roba che viene approvata in questi giorni e che da giugno arriverà sotto forma di bolletta, probabilmente non precompilata come prevedeva la norma, nelle cassette delle lettere degli italiani. Grazie a Gianni Trovati, anche se le notizie non sono ottime, e continuiamo a parlare di cronache dal governo, nella fattispecie della vicenda dei due Marò. Sul caso dei due Marò, l'Italia abbandona la strada del negoziato bilaterale per avviare un percorso di procedura internazionale. È il ministro degli esteri Federica Mogherini ad annunciare il cambio di strategia deciso dal governo per riportare in patria Salvatore Girone e Massimiliano Latorre, i due fucilieri di marina trattenuti in India da più di due anni con l'accusa di aver ucciso due pescatori nel corso di una missione antipirateria al largo delle coste del Kerala. Si conclude la missione dell'inviato speciale Staffan De Mistura, al quale va il ringraziamento della responsabile della Farnesina, che riferendo in Parlamento ha anche annunciato il ritorno a Delhi dell'ambasciatore Daniele Mancini. La nuova fase inizierà con uno scambio di punti di vista sulla vicenda fra le autorità indiane e quelle italiane attraverso l'istituzione di una commissione di esperti di diritto. Nel caso non si arrivi ad una soluzione concordata, ha spiegato Mogherini, si procederà al vaglio degli strumenti preposti alla risoluzione delle controversie internazionali. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ancora notizie dall'Ucraina. Appena arrivate, il Ministero dell'Interno di Kiev ha chiesto agli abitanti di Sloviansk, dove, come vi abbiamo raccontato, è in corso un'operazione militare contro gli insorti filorussi, di non uscire dalle proprie abitazioni e di non lasciare bambini da soli per le strade. Questo si legge in un comunicato. Adesso parliamo di amianto, perché oggi sono stati presentati i numeri dell'Osservatorio Nazionale, che con il sostegno del Movimento 5 Stelle ha lanciato un piano alternativo a quello del governo. Meno del 2% di tutto l'amianto presente ancora in Italia è stato bonificato. 20 anni dopo la sua messa al bando, secondo stime dell'Osservatorio Nazionale Amianto, rimangono da bonificare circa 40.000 siti, con 34 milioni di tonnellate di materiali in amianto compatto e alcune milioni di tonnellate, almeno 5, in amianto friabile. Materiale presente sui nostri tetti, nelle scuole, nelle fabbriche, negli ospedali. Solo le scuole, in cui è tuttora presente il killer invisibile, denuncia l'associazione, sono 2.400. E il numero di vittime delle malattie asbesto correlate intanto continua ad aumentare, 5.000 all'anno, con un picco previsto per il 2020. Su queste basi il Movimento 5 Stelle fa proprio un nuovo piano nazionale per l'amianto messo a punto dall'associazione, che lancia una piattaforma online, onaguardianazionaleamianto.it, aperta alle segnalazioni dei cittadini. Ezio Bonanni, presidente dell'Osservatorio, denuncia: il piano nazionale amianto del governo è fermo. Quello del governo, approvato l'8 aprile del 2013, è stato bocciato dalle regioni, non è quindi operativo, e dunque nasce la necessità di affrontare e risolvere il problema mobilitando i cittadini per cercare di bloccare questa strage silenziosa che determina la morte di circa 5.000 persone ogni anno nel nostro paese a causa delle patologie asbesto correlate, tra le quali mesotelioma, tumore polmonare e altre gravi malattie. Se noi guardiamo oggettivamente, il governo e le istituzioni territoriali nulla stanno facendo ai fini della bonifica dei territori. E mi riferisco agli edifici pubblici, mi riferisco ai territori in generale e unitamente al non intervento anche nel settore produttivo industriale. Oltre ai tetti in Eternit, è presente negli intonaci, è presente nei materiali, negli impianti, nei vecchi computer. C'è tutta un utilizzo di amianto che spesso viene... Ci sono anche delle esposizioni nascoste, degli utilizzi che non sono così noti. Aprendo ai cittadini la possibilità di segnalazione anche in forma anonima, l'associazione si propone di arrivare ad una mappatura completa del territorio italiano, tenendo conto del fatto che per alcune regioni come Calabria e Sicilia non ci sono dati disponibili. Il 28 aprile sarà la giornata nazionale delle vittime dell'amianto. Per settembre l'osservatorio annuncia un'iniziativa shock che accende i riflettori internazionali sul ritardo italiano. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Tra poco andremo a fare un punto su questa giornata, sulla giornata che attende Roma, quella del 27, quella di domenica, giorno della canonizzazione dei due papi, ma lo facciamo dopo il traffico. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Sono ripresi gli scontri nell'Ucraina orientale, blindati di Kiev sono entrati a Sloviansk, ci sarebbero 5 vittime. Il governo cambia strategia sul caso dei Marò, rimosso De Mistura, ora diventa questione internazionale. Roma, lo avete sentito, si prepara ad accogliere 1 milione di persone per la canonizzazione dei due papi domenica, ne parleremo tra un attimo. E l'ultima notizia battuta dalle agenzie sono le dichiarazioni del direttore di Rai 1, Giancarlo Leone, che parla del prossimo Sanremo, del Sanremo 2015. Dice: ho chiesto a Carlo Conti un progetto per il prossimo Sanremo, quindi sarà probabilmente lui a condurlo, anzi quasi certamente a questo punto. Veniamo alle vicende, appunto alla giornata che attende Roma, la domenica che attende Roma, innanzitutto dal lato dell'organizzazione. Una macchina organizzativa complessa che partirà ufficialmente alle 19 di sabato. La canonizzazione dei papi Roncalli e Wojtyla metterà alla prova la capitale per un evento dal costo stimato per le casse del Campidoglio in 11 milioni di euro, di cui 4,7 soltanto per la pulizia e il decoro. L'area di massima sicurezza già dalla serata di sabato sarà interdetta a qualsiasi veicolo che non sia di soccorso del corpo diplomatico e andrà da Piazza San Pietro, Borgo Santo Spirito fino a Piazza Pia. L'afflusso dei fedeli sarà consentito dalle 5:30 della mattina di domenica in vista della cerimonia delle 10, la quale non occorre alcun biglietto. I varchi sono 3 con passaggio al metal detector e sono a Via della Conciliazione, Via Traspontina e Via San Pio X. Le metro saranno aperte dalle 4 di mattina di sabato fino alla mezzanotte di lunedì, con le piazze Risorgimento e Ottaviano chiuse al traffico. Non transitabile neanche il Lungotevere da Piazza Cavour a Piazza della Rovere. Per le persone con disabilità sono previste 3 postazioni a Piazza Sant'Uffizio, Piazza Risorgimento e Via della Conciliazione. Il Comune di Roma ha inoltre disposto alcuni maxi schermo sui fori imperiali, Piazza Navona, Castel Sant'Angelo e Piazza del Popolo. Daniele Scopigno, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Negozianti e pellegrini naturalmente in fermento, sempre Daniele Scopigno ha raccolto qualche voce. Già a piedi è un problema, si figuri adesso con gente che viene e non sa dove andare, che c'è gente che specula moltissimo su questo fatto qua. Quindi penso che sia una città poco vivibile in concomitanza di queste manifestazioni internazionali. Dopo tanti anni, quest'anno c'è tanta gente. Quali sono i souvenir che cercano di più? Croci, soprattutto immaginate del Papa, di Papa Francesco, di Giovanni Paolo II e di Papa Roncalli. Giovanni Paolo II è rimasto impresso nel cuore della gente. Molto richiesto, stiamo qui apposta. Rispetto alle altre capitali d'Europa, gli alberghi sono costosi. E quello è veramente un problema. Per quanto riguarda le famiglie numerose, o non sono attrezzate per avere più persone in una stanza, oppure devi prendere 2 camere. E le 2 camere costano tanto rispetto alle altre città europee. E chiudiamo questa pagina con l'aspetto religioso, tra i punti di contatto fra i due papi, anche nella morte, insomma spiega, sentiamo l'intervista al microfono di Katia Caramelli, di Marco Roncalli, pronipote del Papa Buono e autore di Papa Giovanni il Santo, edito da San Paolo. C'è stata questa decisamente partecipazione proprio corale, dove il popolo, sia dei credenti ma anche dei non credenti, ha affollato appunto Piazza San Pietro, direi che proprio ha quasi accompagnato questi congedi, no? Cioè, ha vegliato, e quindi direi che proprio la gente ha capito proprio nel momento del distacco anche, come dire, come avevano interpretato questo ruolo di paternità, no? E direi anche di più, questo che unisce queste due figure, fatte se vogliamo delle debite proporzioni numeriche, non dimentichiamo anche che cosa vuol dire la comunicazione, non dimentichiamo quanto c'è stato di spontaneo, quanto magari è stato anche alimentato, eccetera, però direi che c'è anche il passaggio successivo che li accomuna, cioè il popolo che diciamo il mondo anche della Chiesa, sono anche quelli che poi chiedono subito di fatto gli altari per queste due figure, in modo diverso, no? Con lo slogan, se vogliamo, santo subito per Giovanni Paolo II, ma anche addirittura proprio in concilio da parte dei padri conciliari la richiesta di canonizzazione addirittura per acclamazione per Giovanni XXIII. E torniamo alla politica adesso. Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, vicepresidente del Senato, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, io le devo confessare una cosa. Io questa questione del Senato elettivo e perché sia così importante non l'ho capita né da una parte né dall'altra. Me la spiega lei, per favore? Allora, premesso che io ritengo che se si ritiene il Senato un impaccio è meglio abolirlo del tutto. Una Camera dei deputati e una conferenza Stato-Regioni possono assolvere al meglio ai doveri di rappresentanza del popolo e del rapporto territorio-cittadini. Se però il Senato deve rimanere in vita in qualche modo, piuttosto che infarcirlo di nominati, questa è la proposta del governo, addirittura si ipotizzano 21 senatori nominati dal Presidente della Repubblica, una serie di sindaci e di rappresentanti delle regioni. Allora c'è chi dice che si potrebbe, man mano che si vota per le regioni, nella stessa votazione, nella stessa fase, con una scheda a parte, designare un qualche numero di rappresentanti della singola regione che vanno a formare questo Senato. Sarebbe quindi un modo per dare una maggiore legittimazione democratica e popolare. Francamente, le ripeto, essendo aperto anche alla totale soppressione del Senato, se deve rimanere in vita, credo che un principio democratico di scelta dei cittadini sia meglio che una sfilza di nominati che a quel punto non avrebbero senso. Ma l'avete presentato una proposta per l'abolizione completa del Senato? Ce ne sono sicuramente nel Parlamento, ne sono state presentate. Il senatore Malan poi ne ha presentata una per abolire la Camera. Ah, il problema è mantenere un'unica assemblea. Quindi, mi scusi, i senatori presentano progetti per abolire la Camera, giustamente i deputati quelli per abolire il Senato. Il problema, se è il monocameralismo di avere una sola Camera che dà la fiducia al governo, basta che ce ne sia una, poi che sia l'una o l'altra è solo un nominalismo. Poco importa. Bisogna snellire il processo legislativo, semplificare la decisione, questo è l'obiettivo. È la rottura del patto col Presidente del Consiglio questa? Noi vogliamo mantenere il patto delle riforme, ci limitiamo a prendere atto che nella discussione che si sta svolgendo in Senato, in Commissione Affari Costituzionali, mi pare che il 90% delle dichiarazioni sono favorevoli a una elezione dei senatori che dovrebbero rimanere, e quindi io credo che sarebbe ragionevole se Renzi ha posto quattro condizioni che rinuncia a una delle quattro, e quindi vedremo, non mi sembra un fatto fondamentale, non comporta spese in più, non comporta quindi, il Senato non dovrebbe comunque esprimere la fiducia. Quindi il patto non è rotto, dice la riforma. Si deve fare, si deve superare il sistema con due assemblee che fanno le stesse cose, su questo non c'è dubbio. E il patto non è rotto, cioè proprio per dirla direttamente. No, vedremo adesso nel proseguo della discussione, non è che solo noi, tanti hanno sollevato questi dubbi all'interno del PD, la maggior parte vuole che i senatori siano eletti e non nominati. Non mi ha risposto anche, però, non mi ha risposto. No, intanto la riforma si deve fare, non possiamo rimanere con il Senato e la Camera che fanno tutte e due le stesse cose, facendo perdere tempo al Paese, su questo non ci sono dubbi. E dice poi... Sulle modalità, su alcuni aspetti sarà lecito discutere, le ripeto, perché i dubbi su alcune modalità vengono da tutti i gruppi parlamentari, anzi noi siamo forse quelli che più stanno collaborando con Renzi, è seguito più da noi che dal suo partito sulle riforme costituzionali, in verità. Senta una cosa, un'ultima domanda invece sulle condizioni del suo partito, no? Che viene descritto in questi giorni come allo sfascio. Ci sono state anche quelle dichiarazioni di Bondi sulle quali in parte ha ritrattato, è tornato indietro, insomma, ha parlato di un centrodestra allo sfascio, in realtà non solo di Forza Italia. Che cosa vi attendete da questo voto europeo? Noi puntiamo ad avere almeno il 20% dei voti e con la presenza di Berlusconi in campagna elettorale contiamo di arrivarci. È chiaro che la persecuzione nei confronti di Berlusconi penalizza molto il nostro partito. Io vi aspetto che il centrodestra nel suo complesso sia nella somma dei singoli partiti largamente sopra il 30%. Se Forza Italia sarà sopra il 20%, si confermerà la locomotiva del centrodestra. Se il centrodestra sarà sopra il 30%, si dimostrerà in grado. Se troverà il bandolo della matassa, di essere competitivo quando ci saranno le elezioni politiche nei confronti della sinistra. Tenga conto che anche i sondaggi di questi giorni dimostrano che il centrodestra sta o alla pari, o addirittura un po' avanti, o leggermente sotto alla sinistra. Nel momento in cui Renzi sta al massimo del consenso possibile, è nuovo, è giovane, fa promesse, fa annunci, non è ancora arrivato il tempo. Vi sta succhiando un po' di voti, Ma adesso le ripeto, sto dicendo che lui oggi è al massimo del suo favore possibile, no? Nuovo sulla scena, promette tutto, non c'è ancora la verifica. Ed è comunque in una posizione elettorale sul centrodestra, secondo vari sondaggi, l'ultimo di Tecne, addirittura in vantaggio rispetto al centro-sinistra. Quindi io sono fiducioso che ci sarà una soluzione positiva. Per quanto riguarda Bondi, la sua precisazione della sera dimostra in quale stato di confusione sia. La precisazione è peggiore ancora della dichiarazione, perché un dirigente politico che dice ma non pensavo che strumentalizzassero le mie parole si dimostra inadeguato al ruolo, perché ci sono i momenti della discussione, i momenti dell'impegno corale della campagna elettorale. Bondi ha dimostrato di non essere all'altezza di tempi difficili, farebbe bene a, come dire, se non se la sente, a mettersi in panchina per un po' di tempo. Succede anche nello sport. Grazie Maurizio Gasparri. Grazie. Senatore di Forza Italia, vicepresidente del Senato, e c'è in studio, mi ha raggiunto Marta Cagnola. Ciao Marta. E quando arrivo io si parla di temi seri, qua sì. Nella fattispecie Sanremo, l'abbronzatissimo Carlo Conti dunque sarà il prossimo conduttore. Ma noi ne siamo felici. Allora, sapevamo che la risposta doveva arrivare entro la fine di aprile, perché Giancarlo Leone, direttore di Rai 1, durante lo scorso Sanremo ha detto: la prima persona a cui lo chiederò il Sanremo 2015 sarà Fabio Fazio e lui potrà rispondere sì o no. La verità è che alle 12.59 di oggi, durante una conferenza stampa di presentazione del nuovo spettacolo proprio di Carlo Conti su Rai 1, Giancarlo Leone cosa ha detto? Dissi che ne avrei parlato entro un mese con Fazio per un nuovo progetto. Infatti l'ho incontrato, Fazio ha ritenuto di lavorare per un progetto ma non per il 2015, quindi magari tornerà ma non subito. Devo ancora fare passaggi formali, ma è ovvio che la prima scelta sarebbe stata ed è Carlo Conti. Gli ho chiesto un progetto e sono sicuro che l'anno prossimo lo faremo. Quindi hashtag Sanremo 2015 va a Carlo Conti. Va a Carlo Conti. Grazie Marta. A presto. Vedremo, in bocca al lupo a Carlo Conti. Speriamo che insomma faccia meglio, per così dire. Ecco. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ci sarebbero 5 vittime nell'Ucraina orientale. Blindati di Kiev sono entrati a Sloviansk, occupata da 2 settimane da filorussi. Il governo ha cambiato strategia sul caso dei Marò, rimosso De Mistura, ora diventa una questione internazionale, dice il ministro Mogherini. 750 milioni di euro dai conti correnti, tanto costerà l'innalzamento della tassa sulle rendite finanziarie, il calcolo fatto dal Sole 24 Ore sulla base del decreto IRPEF. Roma si prepara ad accogliere 1 milione di persone per la canonizzazione dei due papi di domenica. Dalle 5.30 di mattina partirà l'afflusso dei fedeli. Sarà Carlo Conti il prossimo conduttore di Sanremo, lo ha annunciato il direttore di Rai 1 Giancarlo Leone, come avete appena sentito. La borsa. Borse in diretta. Borse positive oggi, più 0,66% sul FTSE All Share, più 0,7% sul FTSE MIB, in una giornata complessivamente positiva anche per le altre piazze finanziarie europee. Parigi guadagna 1 percentuale circa, Francoforte circa 0,5% e Londra lo 0,62%. Ceo Condina, Radio Corriere, Il Sole 24 Ore, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Quanto incide su tutto questo il fatto che Mario Draghi sia tornato a parlare dicendo acquisteremo titoli se peggiora lo scenario dei prezzi, tra le altre cose? Guarda, diciamo che incide solo in parte, perché le borse hanno aperto molto bene, poi sono state rinfrancate tra virgolette dal buon risultato dell'indice IFO, che come noto è il barometro un po' della fiducia degli imprenditori tedeschi, un IFO che è andato oltre le attese. Poi sicuramente è arrivato anche l'impegno di Mario Draghi a questo acquisto di asset per rimediare alla possibile deflazione, quindi all'utilizzo di misure non convenzionali, e le borse hanno aumentato leggermente i guadagni, sono arrivati oltre l'1%, poi però adesso hanno leggermente ripiegato. Singoli titoli da segnalare, CEO? Ma diciamo sostanzialmente bene tutto il comparto bancario, a Piazza Affari, anche grazie a uno spread che è sempre sui minimi, oggi è risalito leggermente a 156 punti base, però c'è anche Saipem che fa più 3%, oggi ci sono i conti trimestrali e gli analisti scommettono su una conferma della guidance per il 2014, quindi c'è fiducia sul titolo che come noto negli ultimi due anni ha perso parecchio terreno per alcune rettifiche di bilancio. Grazie anche per oggi a Ciao Condine, ai colleghi di Radio Cuore, il Sole 24 Ore. Buona giornata. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. E veniamo a una vicenda che arriva da Verona, dove il comune, per evitare i bivacchi senza tetto in alcune piazze del centro storico, ha emesso un'ordinanza che vieta, pena multe da 25 a 500 euro, la distribuzione di alimenti e bevande in queste aree. Saluto Marco Tezza, che è presidente di Ronda della Carità, che è l'associazione che è stata citata più spesso in queste ore, perché questa cosa la fate voi di distribuire cibo ai senza tetto. Siamo tempestate di telefoni. Grazie, buongiorno a tutti. Buongiorno. Come l'avete presa questa ordinanza? Beh, non ce l'aspettavamo questa ordinanza, prima di tutto, anche perché una settimana fa ci siamo trovati con il comandante dei vigili urbani, il quale ci ha chiesto di spostarci, come facciamo ogni anno nel mese di maggio, inizio di giugno, prima delle opere, e ci spostiamo a 20-30 metri da quei posti dove c'è questa ordinanza. Sicché comunque noi ci saremo spostati. Per ora questa ordinanza non mi limita nel mio lavoro, perché i miei volontari eseguiranno comunque, danno da mangiare e invitano queste persone a venire in questa via, e poi sicuramente andremo anche a vedere queste persone come stanno. Laddove troverò una situazione di grande disagio, la persona per qualsiasi motivo non può alzarsi per un problema di salute, allora gli porterò da mangiare. Gli porterà comunque da mangiare, cioè lei dice se la condizione non consentirà di far sì che questa persona si sposti, no, dalle zone, esatto, per le quali è prevista l'ordinanza, lei dice io l'ordinanza l'andrò a violare perché è uno stato di necessità. Io vado incontro a queste persone, laddove trovo, no, capita raramente, ma purtroppo capita, se ci sono delle persone che hanno bisogno di assistenza, io vado, per dignità nei confronti di questa persona, vado a soccorrerla anche con un piatto di pasta. Lei dice, e anche se mi danno una multa, pazienza. No, beh, insomma, io credo che, guardi, io sindaco e con i servizi sociali del comune ho sempre collaborato. E abbiamo fatto c'è una rete di senza dimora, abbiamo fatto grandi cose assieme, c'è una collaborazione costante, c'è una rete di senza dimora che anche questo inverno si è data da fare su dei progetti riguardanti a delle persone croniche che sono in città, dunque c'è la massima collaborazione. Io credo che quando succederà, spero che non succeda, che dovessi dare un piatto di pasta a una persona perché è in condizioni critiche, credo che il buon cuore insomma faccia da padrone. Grazie Marco Tezza, presidente di Ronda della Carità, una buona giornata, e saluto Paolo Magri, direttore dell'ISPI, che torna nostro ospite. Buongiorno. Buongiorno. Allora, l'abbiamo chiamata oggi per parlare di due temi in realtà. Il primo, essendo lei una persona che da 25 anni frequenta e conosce il Brasile, è capire un attimo che cosa sta succedendo, perché siamo a una cinquantina di giorni dai mondiali e le violenze proseguono, insomma ci sono stati scontri, anche ad Ipanema, anche in zone turistiche, e vorrei capire come si presenta il paese a questo appuntamento. Beh, ci sono alcuni elementi di preoccupazione, senz'altro, senza fare del catastrofismo. Le proteste di questi giorni sono innanzitutto diverse da quelle che abbiamo visto un anno fa. Un anno fa era il ceto medio che scendeva in piazza e usava il pretesto dei mondiali perché accusava il governo di sprecare soldi che servivano per opere pubbliche, per trasporti, educazione, qualcosa simile a movimenti no TAV in Italia, nel nostro paese. In questi giorni chi protesta e chi fa caos sono gli abitanti delle favelas. Favelas che sono stati oggetto di trasferimenti forzosi in alcuni casi per costruire nuove realtà legate alle Olimpiadi e ai Mondiali, ma che soprattutto da due anni sono oggetto di un programma teoricamente positivo, il programma di pacificazione. Lo Stato con la polizia ma anche con i servizi sociali entra nelle favelas cacciando via i commercianti di droga. Ma c'è un problema. La polizia militare che gestisce queste operazioni non è amata in Brasile e molti abitanti delle favelas hanno più vicinanza con i trafficanti sul territorio che non con la polizia violenta e corrotta. Per cui le violenze di questi giorni mettono sotto accusa la polizia per aver ucciso un giovane che non c'entrava nulla. Trafficanti che presumibilmente sono anche una fonte di reddito, evidentemente, anche questo pesa, suppongo. Sono una fonte di reddito e sono dei fattori comunque nella drammaticità della situazione di normalizzazione sociale. In alcuni casi una realtà simile, anche negli aspetti drammatici, a quella della mafia, per dire. Sono realtà che stabilizzano. Certo, ci sono i morti anche nelle favelas controllate dai trafficanti, ma ci sono morti, ahimè, anche nelle favelas dove la polizia entra e dove la polizia rimane. Questo è il nodo di fondo. Qual è il rischio? Il rischio è che queste due proteste diverse, diversissime fra loro, nelle prossime settimane si mescolino, si autoalimentino, perché c'è l'occasione dei mondiali che dà una visibilità mediatica e mette il governo in una situazione di ricatto, è ricattabile perché le richieste dei protestanti sotto i mondiali devono essere accolte in un certo senso, e tenuto conto poi che fra 3-4 mesi in Brasile si vota. Dilma Rousseff vede in queste elezioni, in questi campionati, l'occasione di rilancio della sua candidatura che negli ultimi mesi ha avuto qualche difficoltà. E ci può essere qualcuno delle forze avversarie che ha tutto l'interesse di guastare la festa e quindi alimentare queste proteste. L'ultimo commento che le chiedo, saltando se vogliamo di Paolo Infrasca e passando dal Brasile all'Europa, dato che questo è il tema sul quale più spesso la convochiamo in diretta e la interroghiamo, è la questione dell'Ucraina. Ci sono stati scontri molto violenti oggi, a quanto pare 5 vittime tra i filorussi a Sloviansk, e Putin dice le azioni di Kiev avranno delle conseguenze. Questa è la famosa scintilla, per così dire, che può far scoppiare il tutto, e soprattutto è la dimostrazione che Ginevra non è servita a niente. Questo, ahimè, è il timore. A Ginevra una settimana fa tutte le parti in casa hanno dichiarato la volontà di normalizzare, ma questa offensiva del governo di Kiev un giorno dopo la visita di Biden, il vicepresidente americano, ci fa capire innanzitutto che gli USA non paiono avere una leva sufficiente a contenere l'azione del governo ucraino, sul quale governo soffiano anche delle forze estremiste, e si vota fra poco. I russi, dall'altro canto, negando da sempre le delle forze sul campo, possono sostenere di non avere nessuna leva per fermare le forze filorusse. Quindi nessuno controlla nessuno, e in questo, come le diceva poco fa, un incidente come il cadavere di un leader politico vicino a Kiev trovato trucidato accendono gli animi e scatenano reazioni e controreazioni. Questo è lo scenario che non volevamo, ma che può profilarsi. Grazie ancora una volta a Paolo Magri, direttore dell'ISPI, anche per la sua chiarezza. La ringrazio, le auguro buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi.